così. Ma se fai con il microfono. No. Allora spostatevi secondo tutti avanti. No, c'è con il microfono. Sì, sì. Più efficace col microfono che arriva anche di là, e sì, capisco sì. Che partito è qualcosa. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Parliamo con microfono perché dicono che lì in fondo non si sente molto, altrimenti. Così mi sentite? Sì. Sì? Va bene. Allora, apriamo ufficialmente, tra rulli di tamburo e squilli di tromba, questo piccolo dibattito dal titolo Il diritto alla salute e il benessere nella società globale. Direi, possiamo tranquillamente usare questo tempo in maniera elastica, come già è successo, perché ormai sono le 3, mi dicono, e dovevamo iniziare alle 2:30, per cui cerchiamo di essere elastici anche nelle modalità di intervento. Io sto in piedi, non sto seduto, posso anche venire lì davanti, voi venite vicino, fate come vi sembra meglio, insomma. Non essendo centinaia possiamo gestirci bene. Io sono Italo Nessi, faccio il medico, lavoro attualmente in pronto soccorso, sono tra le altre cose il presidente dell'associazione Medici con l'Africa Como. Qui c'è qualche altro rappresentante in maglietta nera con lo slogan Mio fratello è africano, che l'avevamo lanciato qualche anno fa quando iniziavano tutti i flussi migratori. E c'è qualcun altro che è stato presidente prima di me e ci saranno coloro che saranno presidenti dopo di me, tanto queste sono sedie a basso tasso, non, E con me, siccome questo è un evento un po' particolare, con me vedete qui dietro al tavolo altre 3 persone che si vanno a presentare autonomamente, Io iniziamo da qua, prego. Io sono Luca Mingarelli, sono qui in rappresentanza dell'Ordine degli Psicologi Lombardi, che è la prima volta che entra in un evento di questo tipo. Sono presidente di un'associazione del territorio che si occupa di psichiatria dell'adolescenza, che è una comunità terapeutica, e sono molto contento di essere qua in questo evento, in questa gemellanza tra psicologi, medici e anche esperti. Il metodo Greenberg, quindi il corpo io definirei, poi ci sarà Silvia che vi spiega bene che cos'è. È un primo esperimento e ci fa molto piacere essere qua. È stata un'organizzazione non facile e certamente c'è da ringraziare gli organizzatori, perché è una situazione molto particolare. Il tema, ecco, che abbiamo scelto insieme, un po' parlando con Italo, è il tema che parte dal diritto alla salute e sfocia nel benessere, che poi in realtà sono degli elementi della stessa pasta, o forse il diritto alla salute è un elemento primario, un ingrediente fondamentale dal quale possono emergere gli aspetti del benessere. Poi approfondirò dopo la tematica. Do a Paolo Campanini. Buongiorno a tutti, benvenuti, io sono Paolo Campanini, sono consigliere dell'Ordine dei Psicologi della Lombardia. In realtà il mio primo lavoro presso la Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Milano, quindi sono uno psicologo in mezzo ai medici e che lavorano con i lavoratori tutti i giorni. Questo tipo di evento, appunto, come ha detto Luca, è un po' particolare, è la prima volta che un ordine, un ente pubblico istituzionale si ritrova in una fiera, in particolare una fiera ecosolidale, questo ci fa molto piacere. Andremo poi a sviluppare un po', porterò il mio punto di vista sul benessere delle persone, benessere nella società, e cerchiamo un attimino di capire cosa c'è che funziona o non funziona in questo concetto di benessere. Bene, io mi presento, sono Silvia Dragoni e sono un'operatrice del metodo Greenberg, e prima di tutto benvenuti in questo caldo estivo che finalmente resta in questi giorni. E il mio intervento è legato al benessere e allo stare bene come attenzione e anche come responsabilità, nel senso che spesso ci aspettiamo di stare bene senza mettere la nostra attenzione nella vita, quindi il tema dello stare bene e di essere in buona salute anche grazie alla responsabilità. Per cui per me questo è un po' il tema che mi lega sia a Medici Senza Frontiere sia agli ordini degli psicologi al fatto di creare salute e di creare anche relazioni sane grazie allo stare bene. Arrivano, Italo, arrivano. Quindi la seconda sedia sulla quale io sono seduto è quella dell'OESG, che è l'Osservatorio Italiano sulla Salute Globale, della quale sono socio, e che ha scritto 4 rapporti negli anni e che andrò presentando più tardi. Il mio intervento lo divido in 4 punti, che sono dei flash, perché non si può pretendere di parlare di diritto alla salute in maniera esaustiva in 40 minuti. Ovviamente si danno solo degli spunti, si fanno dei flash, e i miei punti sono 4. Uno, presenterò cos'è l'organizzazione non governativa Medici con l'Africa, il nostro gruppo di Como, per sommi capi, con qualche mini esperienza sul campo. 2, vi dico cos'è l'OISG un po' più compiutamente. Parlerò poi di quelli che sono i determinanti della salute e del concetto di diritto alla salute. Da ultimo qualche cenno sull'OMS, sull'Organizzazione Mondiale della Sanità, giusto per capire che cosa sta succedendo in campo internazionale. Io penso che il tema di questo dibattito sia centrato col posto dove siamo, perché capiremo più avanti, parlando dei determinanti della salute, che ci sono moltissime persone qui intorno che nella loro quotidianità fanno un lavoro per cui cercano di rendere la salute migliore, insomma, prendendola da punti di vista, da aspetti diversi. Se volete interrompermi, interrompetemi pure, si può interloquire tranquillamente. Fermatemi se sono troppo lungo, fermatemi voi, non ci sono problemi. Come dicevo prima, facciamo una cosa informale, direi che qui nessuno vuole prendersi il titolo di esperto. Allora, primo punto, sarò un po' didascalico, però dovendo andare per flash. L'Associazione Medici con l'Africa QAM. L'Associazione Medici con l'Africa QAM è nata nel 1950, quindi ha festeggiato i 60 anni l'anno scorso a Padova. È un'organizzazione non governativa, cattolica, perché è stata fondata dal precedente vescovo di Padova, unitamente a un professore universitario. È la più grande organizzazione non governativa italiana in campo sanitario. In tutti questi anni qui ha inviato, soprattutto in Africa, ma anche agli inizi in Sud America e in Asia, 1500 persone circa, in progetti diversi. Pur essendo un'organizzazione cattolica, è aperta anche ad altre realtà di diversa natura. Vi do solo qualche spunto di quello che è stato fatto. In Uganda, Medici con l'Africa, che è Medici con l'Africa è stato messo recentemente per far capire meglio cos'era il QAM, che è un acronimo che sta per Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari, che ovviamente risale al 1950, per cui quando chiedono cos'è il QAM è difficile da spiegare. Medici con l'Africa QAM, di cui si sottolinea sempre il con, nel senso che si vuole lavorare con l'Africa e non per l'Africa, e quindi vuol dire tener conto di quello che esiste già in Africa e lavorare con gli africani e non per gli africani. In Uganda dal 59, ininterrottamente, quindi sono un bel po' di anni, anche durante il periodo di Idi Amin Dada, anche durante il periodo della guerriglia nel nord del paese, in situazioni di conflitto molto pesanti. In Mozambico, paese considerato comunista, perché sapete che Mozambico dopo la guerra di liberazione prese il potere il Frente de Libertação do Mozambique, comunista, e Medici con l'Africa aveva deciso di andarci comunque. Non c'erano molte ONG italiane che volevano andarci, perché al di là dell'impronta cattolica, comunista, eccetera, eccetera, quello che interessava è stare con la gente, con quella che si chiama la base della piramide, che poi ha la ricaduta sulla propria testa di quello che succede sopra di loro. Quindi il Kuam è in Mozambico da quando il Mozambico è stato liberato, in Ruanda dopo il genocidio del 94, dove Medici con l'Africa è stato espulso perché non voleva gradire il livello di corruzione del paese, poi è stato reintegrato successivamente. Ovviamente potete immaginare delle situazioni molto pesanti, parlerò dopo di un'esperienza in Ruanda. In Angola, da quando è finita la guerriglia, anche lì paese devastato da anni di guerriglia dopo la guerra di liberazione, recentemente in Sud Sudan, che è diventato indipendente dal 9 di luglio, quindi un paese giovanissimo, pieno di problemi, 30 anni di guerra civile anche lì, in Nigeria, Guinea-Bissau, Kenya, Tanzania, Etiopia, prossimamente in Sierra Leone. Questi sono i paesi dove Medici con l'Africa sta e dove c'è stata per anni. Vi do un flash tratto da questo libro che si intitola Il bene ostinato, che è un libro che ha scritto Paolo Rumiz, edito da Feltrinelli, è un libro che è uscito recentemente e dove in neanche 200 pagine cerca di mettere insieme la storia di Medici con l'Africa, ovviamente cogliendone solo dei piccoli aspetti. Questo per far capire anche a chi ci conosce come mai facciamo fatica a staccarci dall'Africa. Lui scrive: dall'Africa non ti stacchi mai. Dopo che l'hai conosciuta, la vita diventa un pendolarismo tra mondi infinitamente lontani che pure stanno lì, sotto di noi, a tiro di un viaggio che non comporta nemmeno salti di fusi orari. E sempre il riadattamento più difficile è quello con il nord, così come il desiderio più testardo abita sempre a sud. Un desiderio difficile da spiegare a chi vede arrivare in Europa africani in fuga sui barconi della disperazione. A nord la ricchezza, ma anche le facce annoiate, un eterno coprifuoco sorvegliato da videocamere, l'invasione del superfluo, una frenesia che non lascia più spazio al pensiero e al sentimento. A sud la miseria e lo sfruttamento, ma anche la solidarietà, il sorriso, il piacere dimenticato della pigrizia, le strade piene di vita e di gente, e poi lo spazio immenso, la luce, i colori. Il solo pensiero di essere utile ti fa dimenticare il peggio dell'Africa, la dipendenza dagli aiuti umanitari, la mortalità dei bambini, la fuga dalle campagne, la corruzione della burocrazia, il tradimento di una civiltà tribale antichissima in nome di fasulli valori occidentali. Nulla di tutto questo è freno sufficiente a spegnere il desiderio di tornare. Queste righe qui riflettono quello che abbiamo vissuto noi compiutamente, perché è vero che il riadattamento è peggio dal sud al nord, è stato così sempre anche per noi e lo è ogni volta che torniamo in Africa. Come esempio di vita vissuta, e poi chiudo questo capitolo di presentazione di Medici con l'Africa, ho preso il programma di Nyamata, che era il programma del Ruanda, anno 1996, per la concomitanza di avere qui loro signori psicologi, perché quello è stato l'unico esempio di collaborazione tra medici e psicologi che Medici con l'Africa e altre ONG hanno vissuto. Praticamente il programma è consistito nel radunare più di 2000 bambini che erano abbandonati in un unico posto, nel cercare di curarli, molti sono morti perché sono arrivati in condizioni disperate, e nel reinserirli nelle loro comunità o in quello che rimaneva delle loro comunità, per cui pediatri, psicologi, neuropsichiatri, assistente sociale, programma bellissimo, circa l'80% dei bambini sono stati reinseriti, tolti quelli morti all'inizio. Un programma molto bello questo. E Medici con l'Africa è stato buttato fuori dal Ruanda perché non seguiva le direttive degli amministratori locali, che volevano taglieggiamenti di qua, di là, di su e di giù. È sempre difficile capire queste cose per chi non le ha vissute, però per chi ha conosciuto i protagonisti di queste storie e ha visto le loro facce quando raccontano queste cose, la prospettiva cambia, e cambia molto. Noi abbiamo una collega che si chiama Cristina Pizzi, che fa la pediatra a Lecco, pediatra di base, che è stata la protagonista di questo programma qui insieme ad altri. E lei, devo prendere un po' d'acqua, grazie. E lei scriveva così. Leggo questo per far capire anche il livello di coinvolgimento di queste esperienze. Dice Massimo Brenna, chirurgo, Gianni Galimberti, che è stato in Congo a fine anni 80, possono raccontare anche loro il livello di coinvolgimento, che si unisce a quello che diceva Rumiz prima: conosci l'Africa e poi fai fatica a staccarti. Cristina Pizzi scriveva questo nel 96. A Niamata c'era una bambina di circa 3 anni, aveva perso i denti davanti, così mi ricordava la canzone dello Zecchino d'Oro. Qui c'è gente che ha abbastanza anni per ricordarsi quella canzone lì. Ogni giorno andavo a giocare con quei bambini, ma lei stava in disparte. Quando tutti i bambini si allontanavano, si avvicinava, appoggiava la sua testa a me e si metteva a dormire per 15 minuti. Poi si svegliava e in silenzio se ne andava. Per tutti quei minuti la mia mano accarezzava quella testolina e piangendo ringraziavo chi mi aveva dato l'opportunità di godere di un così grande amore. A Como cosa facciamo? Dopo aver vissuto esperienze di questo tipo, abbiamo deciso di fondare la nostra associazione che si chiama Medici con l'Africa Como, che è nata nel 97. Di fatto facciamo 3 attività, formazione a livello universitario, abbiamo creato delle attività didattiche elettive all'Università dell'Insubria, sia a Como che a Varese, siamo stati all'Università di Novara, alla Bicocca a Milano, odontoiatria a Milano, a Pavia, a cercare di far conoscere questi temi del diritto alla salute, delle disuguaglianze in salute, della salute e cooperazione, del problema della salute e immigrazione. Queste cose le abbiamo fatte anche nelle scuole superiori e inferiori e grazie al coordinamento Comasco per la pace nella scuola dei diritti umani il diritto alla salute è sempre stato insegnato negli anni dal dottor Foglia che l'ha seduto. Informazioni, eventi, dibattiti e poi seguiamo direttamente dei progetti in Africa per i quali raccogliamo dei fondi. Adesso stiamo seguendo un progetto materno-infantile in Uganda che coinvolge 4 ospedali, perché, lo dirò dopo, uno dei target del Millennium Development Goals era l'abbattimento della mortalità materna ed è quello che è rimasto più indietro degli 8 obiettivi, e l'abbattimento della mortalità infantile è quello che dopo la mortalità materna è rimasto più indietro. E quindi stiamo seguendo questo programma e c'è un altro programma multipaese che coinvolge 4 ospedali, uno in Etiopia, uno in Uganda, uno in Tanzania e uno in Angola, che si propone il parto gratuito per le mamme e l'ammissione in ospedale gratuita per i bambini. Io ho terminato il punto 1, non so se qualcuno vuol dire qualcosa, vuole qualche chiarimento, vuole commentare, sentiamoci liberi tranquillamente. Poi passo al punto 2, che è la presentazione, dico cos'è l'OISG. Corro un po' perché il tempo è sempre tiranno. Procedo. Cos'è l'OISG? L'OISG è l'Osservatorio Italiano sulla Salute Globale. È stato costituito nel 2002 in Italia da medici, ricercatori, professionisti che avevano lavorato in paesi in via di sviluppo oppure in agenzie internazionali o che lavorano a livello universitario e sono interessati a problematiche sanitarie internazionali. Per salute globale, in sintesi, si intende la salute del mondo visto nella sua interezza. Sappiamo benissimo che ci sono delle disuguaglianze enormi a livello mondiale e non sto qui ad elencarvele. Di fatto l'osservatorio raccoglie informazioni e conoscenze riguardo lo stato di salute, i suoi determinanti, che sono politici, sociali, economici e ambientali, approfondisce i rapporti tra la globalizzazione e la salute in termini di equità, di diritti umani, di sostenibilità e di relazioni internazionali, produce documenti che mette a disposizione delle istituzioni e dei gruppi interessati. Poi vi posso dare anche gli indirizzi internet di queste cose. Loisg ha scritto 4 rapporti negli anni, che se mi rifate prendere. Una valletta. Che sono questi. Questo è quello del 2002, del 2004, rapporto salute e la globalizzazione, cosa ha significato la globalizzazione del mondo in termini di salute. Questo è quello del 2006, le disuguaglianze in termini di salute, dove non si parla solo delle disuguaglianze tra il nord e il sud del mondo, ma anche delle disuguaglianze all'interno dei paesi del nord o all'interno dei paesi del sud. Sappiamo benissimo, perché è salito la ribalta con la presunta riforma Obama, che in America ci sono quasi 50 milioni di persone che non hanno assistenza sanitaria. Il rapporto numero 3 è del 2006, diritti, ideologie e inganni, salute globale e aiuto allo sviluppo, dove si parla dei problemi della cooperazione e allo sviluppo. E l'ultimo è questo, che è quello di quest'anno, abbiamo lì altre copie per chi è interessato, che parla della formazione riguardo queste problematiche qui. All'interno però ci sono altri capitoli sulla farmindustria, sulla faccenda dei vaccini a livello globale, ci sono dei capitoli sulla guerra e i disastri provocati dalla guerra in termini di salute, c'è il capitolo sulla Palestina e su altre situazioni che vengono focalizzate. La sede dell'OISG ufficiale è a Bologna e i membri dell'OISG direi che sono sparsi in varie città d'Italia. Tutto questo lavoro qui viene fatto su base volontaria. Se non ci sono chiarimenti riguardo l'OISG, passiamo a capire un attimo cosa sono i determinanti della salute e poi capirete perché stiamo bene su questa collina qui e che cos'è il diritto alla salute. Allora, i determinanti della salute si dividono in distali e in prossimali, cioè quelli un po' più lontani, un po' più vicini all'individuo. Comunque anche quelli distali influenzano poi le condizioni di salute di tutti i giorni. I determinanti distali, possiamo dire, le condizioni socio-economiche, quelle culturali e ambientali generali, non mi dilungo, penso che sia facilmente intuibile. Condizioni di vita e lavoro, reddito, classe sociale, ambiente di lavoro, alimentazione, istruzione, acqua, igiene, servizi sanitari e l'abitazione. E capite perché stiamo bene su questa collina, dove ci sono molte persone che si occupano di tutti questi aspetti qui. Reti sociali o comunitarie, e poi ci sono dei determinanti individuali, l'età, il sesso, la condizione genetica. Tutti questi determinanti, dal più largo a quello più vicino, che è l'età, il sesso e la condizione genetica, ovviamente condizionano la salute dell'individuo, e bisognerebbe agire a tutti i livelli di questi determinanti qui per poter dare salute. Lo diranno dopo loro e non mi dilungo, che la salute non è, come ho detto prima, semplicemente assenza di malattia, però quella mi sembra uno dei punti di partenza, l'assenza di malattia. Ovviamente questi determinanti della salute, soprattutto le situazioni, le condizioni di vita e di lavoro e le reti sociali e comunitarie sono diverse tra il nord e il sud del mondo, notevolmente diverse, ce lo immaginiamo tutti benissimo. Ed ecco perché poi i dati di mortalità, di morbilità diventano molto diversi. Io chiedo sempre, soprattutto dopo che sono tornato dall'Africa, a chi piacerebbe vedere morire la propria moglie di parto oppure perdere 2 o 3 bambini per patologie banali come sono le broncopolmoniti, le diarree, e le malarie. Penso che nessuno di noi vorrebbe entrare in quelle statistiche lì. E allora aggiungo sempre che se non va bene per noi, non va bene neanche per loro, a meno che facciamo parte di un altro genere umano. Però se il genere umano è unico, non va bene per noi, non va bene per loro. Una delle affermazioni più idiote che ho sentito tornando dall'Africa è che loro tanto sono abituati. Qui poi abbiamo gli altri relatori, potranno approfondire l'argomento molto meglio di me. Loro tanto sono abituati. Cioè, una delle affermazioni più idiote in assoluto che ho sentito. Sono fortemente rassegnati al fatto che non si riesce a combinare qualcosa per modificare i determinanti della salute. L'individuo ugandese si rende conto che la sua situazione di povertà e di miseria è difficilmente modificabile, e per cui subentra un atteggiamento di rassegnazione e fa parte della vita di tutti i giorni veder morire i propri cari senza poterci far nulla. Questa è una differenza fondamentale tra il nord e il sud del mondo. Noi parliamo spesso di diritto alla salute. Sappiamo che negli ultimi anni la salute e questo concetto di diritto è stato messo in discussione, come altri diritti. Pensiamo solo alla campagna recente dell'acqua, che è la prima cosa che mi viene in mente. Il diritto alla salute è stato messo in discussione e è stata data una spinta fortissima verso la privatizzazione dei sistemi sanitari e di quello che è l'erogazione di servizi sanitari. Questo a livello globale si è trasformato il paziente in cliente. Soprattutto nella lingua anglosassone non si parla più di patient, ma si parla di client. E io su questo dico che mi va bene trasformare il paziente in cliente se al paziente si dà un'accezione passiva. Per definizione, paziente è soggetto passivo della sua malattia, questa definizione non va bene sicuramente, però mi sembra che negli ultimi anni qualche passo avanti sia stato fatto. Il concetto di cliente mi va un po' meno bene, perché io considero me stesso, quando sono malato sono io malato, ma non sono cliente di nessuno, non vado a comprare la macchina, non vado a comprarmi la salute. Spero di vivere in una società che possa garantire un livello minimo di salute anche per il sottoscritto, realtà che in tanti posti del mondo non c'è. Due righe di Amartya Sen, che si pone questa domanda: la salute può essere considerata un diritto in assenza di una legislazione vincolante? Che di solito si dice: lei ha diritto a questo perché c'è una legge che ti dice che tu hai diritto a questa cosa qua. E lui osserva che c'è una lunga tradizione di pensiero sul diritto come etica sociale, le basi morali che una buona società deve avere. I diritti umani in questa tradizione non sono visti come figli della legge, ma come genitori della legge. Nel considerare la salute un diritto umano c'è anche una chiamata ad un'azione per promuovere la salute della popolazione, ovvero ancora una volta per agire a diversi livelli su quelli che sono i determinanti della salute. Per cui lui dice che un diritto umano può essere genitore non solo della legge, ma anche di altri modi di sostenere la causa di un determinato diritto. Il diritto alla salute pretende vasti interventi in tutti i settori, che sono quelli che abbiamo visto prima in rapporto ai determinanti della salute. Per cui, dal punto di vista pratico e culturale, noi ci troviamo in questa fase economico-politica. Se non siamo noi stessi a spingere per un diritto alla salute, rischiamo di diventare clienti anche per quello che concerne la nostra salute. Questo è ovvio. Come è stato vinto il referendum dell'acqua, non tanto grazie ai partiti, ma grazie a chi si è mobilitato per avere il diritto all'acqua, perché altrimenti l'acqua la pagheremmo, perché se diventa un bene commerciabile c'è qualcuno che ne trae profitto per definizione, lo stesso vale per la salute. Noi siamo schierati decisamente nel campo del diritto alla salute, poi qui si possono aprire dibattiti lunghissimi, però rimaniamo schierati, soprattutto dopo essere tornati dall'Africa, dove abbiamo visto che il diritto alla salute è molto meno garantito che qua. E anche qua, peraltro, si stanno facendo degli enormi passi indietro nel garantire il diritto alla salute. Ne riparliamo dopo, eventualmente. Ora, parlavo l'altro giorno con un mio amico riguardo l'OMS. Sappiamo benissimo che alla fine della Seconda Guerra Mondiale, durante la fine degli anni 40, sono state create la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, sono state create le Nazioni Unite, le varie agenzie delle Nazioni Unite, tra cui nel 48 l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il 48 è anche l'anno della Dichiarazione dei Diritti Universali dell'Uomo, tra cui quello alla salute. Dal 48 un altro momento forte in termini di salute è stata la conferenza di Almaty che si è svolta in Kazakistan nel 78, dove il consesso internazionale ha promosso lo slogan salute per tutti entro l'anno 2000, avendo di fronte i problemi del nord del mondo ma anche quelli del sud del mondo. Quindi nel 48 sono state create queste istituzioni e tutte le agenzie, pensiamo non solo all'OMS ma anche all'UNICEF, all'UNHCR, l'agenzia per i rifugiati, all'UNFPA che è il programma alimentare, eccetera eccetera eccetera. Noi ovviamente parliamo dell'OMS. Quindi 48, 78 Almaty, si è proclamato il diritto alla salute per tutti nell'anno 2000, nell'anno 2000 si è visto che questo obiettivo era stato, non dico ignorato, però sicuramente non raggiunto. Allora l'Assemblea Mondiale ha lanciato quelli che si chiamano i goal del millennio, i Millennium Development Goal, ovvero ha detto che dal 2000 al 2015 in 8 aree, che sono l'area materna, l'area infantile, l'area dell'istruzione, l'area dell'AIDS, eccetera eccetera eccetera, si dovevano raggiungere dei target e cercare di abbattere la mortalità infantile, la mortalità materna, la mortalità per AIDS, cercare di aumentare la scolarità, cercare di far capire che il problema del genere umano, uomo donna, è un problema importante, quindi cercare di dare adito alle donne. Hanno fissato degli indicatori, dei target, e nel 2015 si sarebbero dovuti raggiungere questi target. Di fatto non si raggiungeranno, siamo abbastanza indietro in questa curva. E siamo arrivati a oggi, nel 2005 l'OMS ha creato una commissione presieduta dal professor Marmot, che è la commissione sui determinanti sociali, guarda caso, e Marmot, che è presidente di questa commissione, ha presentato il rapporto nel quale dice: la giustizia sociale è questione di vita e di morte, essa influenza il modo in cui le persone vivono, le conseguenti problemi di ammalarsi, il rischio di morte prematura. Noi osserviamo con meraviglia come la speranza di vita e la buona salute continuino a crescere in alcune parti del mondo e con allarme come queste non riescono a migliorare in altre parti. Una bambina venuta alla luce oggi può sperare di vivere 80 anni se nata in alcune parti, meno di 45 se nata in altre parti. All'interno dei paesi ci sono poi drammatiche differenze nella salute che sono legate al grado di svantaggio sociale. Differenze di tale grandezza tra nazioni all'interno delle nazioni semplicemente non dovrebbero mai accadere. Questo è la sintesi del rapporto ufficiale della Commissione Determinanti della Salute che è stata creata dall'OMS, quindi è l'ufficialità. Per cui 48, 78, 2000, Commissione sui determinanti sociali che è uscita nel 2005, siamo nel 2011, mancano 4 anni a raggiungere questi obiettivi che di fatto non verranno compiutamente raggiunti. Ci sono tutta una serie di motivi per questo, lasciamoli lì. In questo ventennio si è sempre parlato della crisi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le principali riviste scientifiche, mediche e non mediche, hanno parlato di questo problema perché è un problema maggiore per il mondo. Siccome il mondo fino ad oggi si è dato come istituzione l'OMS, di cui fanno parte 193 stati membri, con tutte le sue 6 aree nel pianeta, con tutte le commissioni, con sottocommissioni, eccetera, eccetera, questo è il meglio che c'è oggi. E da qui bisogna andare avanti a lavorare, ovviamente. Il problema dell'OMS, da dove nasce il dire che l'OMS è in crisi? La dico sinteticamente perché è molto complessa. L'OMS gode di due tipi di contribuzioni: contributi volontari da parte dei paesi membri e contributi che sono obbligatori. Praticamente ogni paese, tra cui l'Italia, che poi da italiani si cerca sempre di nicchiare su queste cose qua, dovrebbe dare una percentuale del proprio PIL all'OMS perché l'OMS possa programmare le proprie priorità in termini di salute nel mondo. Il problema nasce dove i fondi obbligatori sono un quinto dei fondi volontari. Il budget dell'OMS è di circa 5 miliardi di dollari, dei quali 3 sono già destinati a programmi particolari tipo quello dell'AIDS. Degli altri 2, il 20% è composto da fondi obbligatori, l'80% da fondi volontari. Capite che se io sono lo Stato, l'agenzia sovranazionale, l'ONG, il filantropo che dà un contributo volontario, voglio che questo contributo sia usato per quello che dico io, perché ti dico, ti do questi soldi per piacere, fammi questa cosa qua, e non è garantito che l'anno prossimo te li dia comunque. Questi sono i due difetti principali dei contributi volontari, per cui capite che in un organismo di siffatta specie che ha dei problemi politici perché mette intorno al tavolo 193 rappresentanti di paese, ognuno dipende dalla politica del proprio paese, che vive, che deve programmare l'attività sanitaria mondiale senza poter contare su dei fondi certi, non può essere che un organismo zoppicante. Questo problema va avanti ormai da almeno 20 anni. La direttrice attuale, che è Margaret Chan, che è cinese, ovviamente si è posto il problema, dice: noi non ce la facciamo a sostenere i programmi sanitari a livello mondiale in questa maniera qui, abbiamo una struttura elefantiaca, perché politica e burocratizzata, abbiamo dei fondi inadeguati, diventa difficile cercare di fare dei programmi che abbiano senso. E allora cerca delle alternative. Per coprire il budget dell'OMS l'alternativa sono i fondi privati, ovviamente. Ci vuole qualcuno al di fuori del pubblico che ti dia dei fondi privati. E ci sono quelli che danno fondi privati, le più grandi fondazioni del mondo, di cui sappiamo che la più grande in assoluto è quella di Bill Gates e Melinda Gates, che è la moglie, che è l'uomo più ricco del mondo. Tra parentesi, noi siamo governati dall'uomo più ricco d'Italia, l'uomo più ricco del mondo, con la fondazione che ha un budget di 30 miliardi di dollari, il budget dell'OMS è 2 miliardi di dollari all'anno, questo è un budget di 30 miliardi di dollari, praticamente dice: do io dei soldi. Lo stesso altre fondazioni, Clinton, Rockefeller, solo per citare le più numerose, poi ci può essere l'Unione Europea, ci possono essere diverse ONG, quelle più grosse, diverse altre partnership, però metto dei soldi e li do all'OMS. Ovviamente vale quello che abbiamo detto prima, ti dico io che cosa devi fare con i soldi che ti do e poi facciamo il programma e vediamo se l'anno prossimo te li posso dare ancora. Capite che esiste uno sbilanciamento, abbiamo creato un organismo sovranazionale che dovrebbe occuparsi della politica sanitaria sovranazionale che rappresenta tutti gli stati del mondo, o quasi, meno uno o due, che però non ha le gambe per camminare, che deve dipendere da soggetti estranei per poter sviluppare le proprie politiche sanitarie. Questo è il problema di fondo. Recentemente a maggio si è riunita l'Assemblea Mondiale dell'OMS a Ginevra, dove è stato deciso che per cercare di risolvere questi problemi, nel novembre del 2002 ci sarà il primo forum mondiale sulla salute, dove a questo forum mondiale per la prima volta saranno invitati anche i non rappresentanti degli stati membri, ovvero i rappresentanti delle fondazioni, di organizzazioni internazionali, delle ONG più grosse, eccetera, eccetera. Ovviamente quello che salta subito all'occhio è che molti degli invitati sono più potenti e più importanti dell'ospite. Questo è già chiaro. Io sono l'ospite e sono debole, invito qualcuno che è più potente e più importante di me. Tra parentesi, nelle due assemblee mondiali, quella di quest'anno e quella dell'anno scorso, chi ha aperto l'assemblea mondiale dell'OMS è stato Bill Gates. Probabilmente non per caso. Allora, ci saranno ospiti che guarderanno male altri ospiti, il mondo delle organizzazioni non governative, il mondo del volontariato guarderà male i rappresentanti di farmindustria o di queste fondazioni filantropiche e viceversa. Il punto di domanda più grosso è che possano prevalere degli interessi economici su quelli della salute. Questo mi sembra quasi lapalissiano. E la domanda di fondo rimane: come potrà questo forum andare incontro alle aspettative del settore commerciale senza usurpare il governo dell'OMS? Vi do degli esempi molto pratici di questa cosa qua, degli ambiti di conflittualità. Pensiamo per esempio alla proprietà intellettuale, i brevetti. Ricordiamoci di quello che era emerso quando è stato posto all'attenzione mondiale il problema dell'AIDS in Africa, con i farmaci per curare l'AIDS, il problema dei brevetti, i farmaci che non arrivavano, le persone che comunque si ammalavano e morivano. Proprietà intellettuale, punto di domanda. L'industria farmaceutica, un altro inciso. La sanità come business mondiale è seconda solo a quello delle armi, sto per dare l'entità, nella sua totalità, non sto parlando di farmaci, sto parlando di tutti i servizi sanitari. Armi, sanità. Come fatturato, l'industria farmaceutica è la seconda al mondo dopo l'elettronica, per cui capiamo l'importanza di questi problemi qui. Tra parentesi, permettetemi una parentesi, se Bill Gates è diventato miliardario a una fondazione con un budget di 30 miliardi di dollari, poteva venderci qualche computer un po' meno, no? Cioè diminuivamo un pochettino quel gap lì almeno, però vabbè. Quindi l'industria farmaceutica ultimamente si è dedicata a produrre delle molecole fotocopia, come vengono chiamate. Ci sono diverse classi di farmaci antipertensivi, anticolesterolemici, ci sono 20-30 molecole di quella classe lì che cambiano di poco o di nulla in termini di farmacocinetica o di farmacodinamica. Ovviamente cambio la molecola, tengo il brevetto, perché sposto questa bottiglia da qui a qui, ma questo mi permette di tenere il brevetto della molecola nuova, e questo ovviamente diventa un fattore commerciale. L'industria farmaceutica si è buttata sui vaccini, e poi parleremo del problema dei vaccini non i vaccini per la malaria, la patologia prevalente nel sud del mondo, vaccini per altri tipi di patologie. Hanno messo da parte quello che vengono chiamate le malattie neglette, che sono quelle che affliggono il sud del mondo e che hanno pochissimo business perché i poveri non hanno capacità di pagare. Quindi l'altro problema è l'industria farmaceutica e capire dove vuole andare. Problema numero 3, chi è che dichiara un'epidemia? Abbiamo in mente l'anno scorso l'esempio della suina, tutto il pandemonio che è venuto fuori sulla storia della suina. Dichiarare che a livello mondiale c'è una pandemia comporta tutta una serie di implicazioni, non da poco. Io a Como per l'epidemia della suina ho partecipato almeno a 4 riunioni in ASL, a 7 riunioni del mio ospedale, a riunioni di reparto, ho perso un sacco di tempo, qualcuno si è fatto anche vaccinare e poi sappiamo tutti che è diventato un flop. E questo l'ho fatto io al mio livello, che è basso livello. Immaginiamoci negli alti livelli. Altri problemi che incidono sempre sulle determinanti della salute. Pensiamo all'industria del tabacco e quella dell'alcol. Pensiamo al problema dell'acqua e a quello dell'alimentazione. Poi ci sono anche le abitazioni, il clima, le emissioni industriali. Tutte queste cose qui rientrano sicuramente in ambiti di conflittualità. E ritorno a quello che si sta facendo su questa collina qui, che va in direzione diversa da quello che è la strada maestra. Per cui la domanda è sempre la stessa. Queste persone che si siederanno al tavolo dell'OMS riusciranno a far prevalere la leadership di quell'organismo lì, che bene o male è quello che la storia ci ha dato fino ad oggi, oppure prevarranno interessi di altro tipo? Questa è la domanda di fondo fondamentale, che vale anche per noi, sicuramente vale anche per noi. Io mi fermerei qui, se volete poi ho il foglio con alcuni siti internet per chi vuole consultarli, l'ultimo rapporto dell'OESG è là, per chi è interessato ad averlo, non so quanto sono andato avanti, se sono benissimo, stato... Benissimo. Poi mi piacerebbe anche sentire qualcuno di voi, grazie. Beh, ringrazio Italo io perché ha già detto tante cose che sono certamente connesse al tema che andiamo a trattare. Diciamo che lo sguardo, evidentemente, se parliamo di salute e parliamo di benessere, c'è una stretta, diciamo, il confine labile. Pensavo che la relazione che ha tenuto adesso Italo mi ha generato delle, no, non posso dire che mi ha generato benessere, diciamo, no? Mi ha generato più delle riflessioni, dei pensieri, delle domande, e vorrei che anche il mio intervento, malgrado mi auguro che possa anche generare minimamente benessere, ma sia più foriero di domande che non di risposte, proprio per il fatto che in un tempo molto breve, diciamo che il tema del benessere, della salute, anche dal punto di vista psicologico, è un temone gigantesco, diciamo, ci sono migliaia di libri scritti sull'argomento. La prima cosa che mi viene in mente da dire è una riflessione che facevo stamattina perché continuo a domandarmi che cos'è, come si può definire il benessere, come si può definire anche la salute di fatto, malgrado ci sono delle definizioni molto precise. E stavo pensando a questa collina, no? E dicevo, mi sono costruito una definizione per questa collina, che è convivere, diciamo che uno stato di benessere si raggiunge quando si è in grado di convivere con lo stress, quando si è in grado di imparare a gestire le emozioni e i conflitti. L'ho un po' fatto ad hoc, nel senso pensando a questa situazione molto aperta. È evidente che la nostra relazione, mia e di Paolo, si intitola specificatamente relazioni umane tra stress e benessere. Si potrebbe dire che un altro punto di vista del benessere, di solito diciamo che noi italiani siamo tipicamente un popolo di lamentosi, quindi non a caso nel sud Italia ci sono le lamentazioni, quando muore qualcuno le donne cantano ancora dei particolari canti. Allora diciamo che abbiamo come tendenza quella di guardare il bicchiere, il mezzo vuoto più che il mezzo pieno, come culturalmente. Allora, l'idea è quella che questa parola, che è stata anche la parola benessere, che è stata molto usurpata, trasformata e utilizzata in tanti modi differenti, come anche da un da dei pensieri, come dire, penso al al wellness delle spa, che non tutte fanno un lavoro di un certo tipo, è come se vendono benessere, ma il benessere non si può comprare andando un giorno a fare magari le terme, no? Ma è un percorso, noi pensiamo che sia un percorso, sia una condizione da cercare, da ricercare, come la salute, no? Non c'è nulla di scontato, si potrebbe dire. E allora dispiace delle volte vedere che qualcuno vende dei prodotti che non generano in realtà un processo di riflessione attorno delle tematiche, promettendo il benessere. Allora, anch'io parlo per punti molto schematici. Sono il primo punto è direi che è legato al fatto che il benessere possiamo inquadrarlo e guardarlo, osservarlo da vari punti di vista e con vari quartieri, si potrebbe dire. Quindi un aspetto significativo del benessere, dello studio del benessere, è l'individuo, cioè io come sto col mio benessere, qual è il mio stato di benessere, si potrebbe dirsi, domandarsi. Un altro piano è qual è il benessere più allargato della famiglia, quindi il primo gruppo è la famiglia di fatto. Allora, qual è il benessere attuale della mia famiglia personale o delle famiglie in generale? Sappiamo che le famiglie hanno delle difficoltà, i ruoli tante volte sono confusi, il padre fa la madre fa il figlio, eccetera, eccetera. Non dico che sia semplice che una volta non ci fossero questi problemi, ce n'erano degli altri. Un altro livello è la società, il lavoro, l'organizzazione, quindi vediamo qual è, Italo parlava, mi veniva in mente se si potesse fare una diagnosi dell'OMS, sarebbe interessante poter studiare, fare una diagnosi sull'organizzazione, non una diagnosi su una patologia, diciamo, no? ma sul come funziona, sul funzionamento delle organizzazioni. Quindi nello studio del benessere ci si domanda e si studia come, partendo da una diagnosi dello stato di salute di qualsiasi luogo di lavoro, si potrebbe dire, no? In qualsiasi luogo di lavoro, non solo nella psichiatria ci sono dei problemi a relazionarsi, dei problemi di leadership, dei problemi di autorità, dei problemi di conflitti, dei problemi di potere, che sono problemi di cui la psicologia dovrebbe farsi carico e cerca di farsi carico. Non solo la psicologia, perché ci sono dei punti di confine naturalmente con tante altre, come dire, competenti esperti di altre materie. Il quarto livello, quindi c'è l'individuo, la famiglia, il lavoro, che è il gruppo un po' più grande, e poi c'è la società, di cui anche Italo ha parlato parecchio. Quindi come si fa a ragionare su un benessere sociale, un benessere della società, quando le guerre, che sono vecchie come il mondo, continuano a perpetuare vittime, e il mercato, diciamo che il mercato economico è strettamente legato poi a una mancanza di benessere nella società. Quindi più si investe in un certo modo, diciamo che l'aspetto economico, un benessere economico, non è strettamente legato a un benessere della società. Ci sono delle società che hanno meno soldi, ma dove le relazioni umane, se vogliamo così chiamarle, sono dal mio punto di vista molto più sane rispetto a altre società dove c'è un altissimo benessere. Pensiamo in Norvegia, c'è un livello reddito pro capite altissimo, però è il luogo dove ci sono più suicidi nella fascia adolescenziale, e questi sono dati che parlano da soli. Rispetto a questo tema più sociale e ampio, mi viene da citare, visto il luogo in cui siamo, Langer, che qualcuno di voi sicuramente ha sentito nominare, che era una persona straordinaria che ho avuto la fortuna di conoscere nel 96 a Dobbiaco, e che ha scritto, Alexander Langer, ha scritto un capitoletto in uno dei suoi libri dove lui parla di quali sono le possibili priorità nella ricerca di un benessere durevole. Sono sette, vi leggo solo due titoli. Un titolo parla dei sistemi tariffari e fiscali ecologici e la verità dei costi. Un altro parla di allargare e generalizzare la valutazione dell'impatto ambientale. E l'ultimo parla del sviluppare una pratica di partnership e interdipendenza. La pratica di partnership e interdipendenza è evidentemente quello che sta accadendo qua in questo istante, cioè, malgrado non ci conoscessimo noi con Italo, con Silvia, in realtà la collina, diciamo, la fiera ha generato delle condizioni per permettere uno spirito di partnership senza il quale io credo non si possa raggiungere né nessuno stato di salute minimo né certo pensare a un benessere possibile sia individuale che globale. L'ultima cosa che dico è legata un po' al benessere individuale, quello della persona, perché poi Paolo entrerà invece nel merito più del benessere sociale. Anche nella persona ci sono vari livelli di benessere, quindi c'è quello prettamente legato allo stato di malattia, ma il fisico non è solo la malattia, quindi sicuramente le buone pratiche della mens sana in corpore sana valgono, quindi il fatto che il corpo sia un po' dimenticato, il benessere del corpo è un po' trascurato, abbandonato, parlo semplicemente dell'abitudine a camminare piuttosto che stare seduti 8 ore davanti a un computer, ecco. Allora, che cosa genera benessere a livello della persona? Questo è un aspetto del benessere individuale, quindi partiamo dal corpo, poi c'è l'aspetto emotivo di cui gli psicologi certamente si occupano, uno psicologo non si occupa solo dei matti o dei problemi mentali o del pensiero, non è uno studioso del pensiero, ma si occupa un po', si dovrebbe occupare sempre di più dell'essere umano in partnership con altri esperti. Quindi l'aspetto emotivo che citavo nella mia denominazione di benessere è sicuramente rilevante. Quindi come stiamo emotivamente, quali sono le emozioni, come facciamo a gestire le emozioni stressogene, che sono sempre più frequenti in una situazione così precaria, dove il lavoro è difficile, dove tutto è molto difficile, le relazioni sono difficili, quindi noi come facciamo a gestire quando siamo arrabbiati, quando siamo gioiosi, diciamo non c'è problema, quando siamo contenti e felici, ma quando siamo arrabbiati, nervosi, abbiamo paure, ansie, si sa per esempio, per richiamare un'esperienza che ho fatto io in Africa, che in alcune popolazioni non ci sono determinate problematiche, ma ce ne sono delle altre, per cui almeno nelle popolazioni cosiddette incivili, che hanno un grado sicuramente di civiltà su altri piani maggiore del nostro, ci sono problematiche diverse, quindi uno stress ansiogeno è meno frequente che non altre problematiche, per esempio, ma questo è un fattore culturale. Quindi la gestione delle emozioni non è una cosa così scontata, facile e automatica. Le emozioni, e l'ultimo livello è quello, oltre quello psichico, che chiaramente è di pertinenza psicologica, con tutti gli annessi e connessi alla psichiatria e a tutto il resto, citerei anche l'aspetto di un benessere spirituale. Quindi esiste, e lo cito per un motivo principale, perché ci troviamo nel nostro ruolo di psicologi, credo anche i medici, a incontrarci con persone di tutti i colori, fortunatamente. E quindi come facciamo noi a cambiare punto di vista, a comprendere, ad accettare una differenza, un differente pensiero, ma anche una differente religione? Perché noi che diritto abbiamo di, per esempio, quando viene un ragazzino musulmano, come faccio a rapportarmi con lui? Come faccio a dargli una mano? Come faccio ad aiutarlo entrando nel suo linguaggio? Che io sono un ignorante, no, ho passeggiato molto nelle medine di Fes e di Istanbul, quindi conosco un po' quella cultura, però diciamo che c'è una formazione a cui noi deontologicamente siamo costretti a formarci per riuscire ad adattarci al contesto che è in cambiamento così rapido, nel senso che abbiamo una responsabilità sociale di adattarci al fatto che diverse culture siano qua presenti e vengano a bussare alla porta anche di noi psicologi. Mi fermo qua, spero di aver suscitato domande, magari dopo lasciamo un tempo con Paolo per approfondire. Lascio la parola a Paolo. Eccomi, allora, buongiorno a tutti, mi alzo in piedi che sono più comodo quando parlo. Il mio intervento, cercherò di essere breve come Luca, riguarda un po' il benessere, poi qua in questa occasione rappresento l'ordine degli psicologi della Lombardia. E quindi devo parlare per forza anche un po' degli psicologi. La prima cosa che mi viene in mente è relativa proprio al nostro lavoro. Allora, incominciamo un po' a ragionare. Per esempio, qual è stato lo psicologo più influente del Novecento, secondo voi? il nome più famoso, più influente, il psicologo più importante del Novecento. No, non vale, colleghi. Freud, altri nomi? Jung? Basta, ok. Piaget. Allora, lo psicologo più importante, sembra, del Novecento è un certo Carl Rogers, che ha influito maggiormente sulla psicologia. Abbastanza sconosciuto al grande pubblico, Carl Rogers. Però era lo psicologo che appunto ha lavorato più di altri sulle relazioni, sul modo di relazionarsi con le persone. E lui diceva sempre, Carl Rogers, diceva: lo psicologo fa il lavoro più importante di tutti. Fa il lavoro più importante di tutti perché cura le relazioni e non cura la persona singola. E per la società, per il mondo, se vado a curare le relazioni, vado a curare quelli che possono essere le cause di conflitto, le cause di guerra, le cause di disparità, le cause di non equità tra le persone. Sottostante c'era un pensiero del tipo che se io voglio avere sempre di più, anche più di quello che mi è necessario, vuol dire esternamente, quindi materialmente, vuol dire che probabilmente mi manca qualcosa internamente che devo andare a soddisfare andando a cercarlo fuori da me stesso. E quindi era un po' un pensiero anche come del tipo che quindi tanto più sono avido, tanto più sono alla ricerca di conquistare più territori possibili, tanto più internamente mi considero una persona che magari ha poco valore, oppure che non è, che si deve per forza affermare perché altrimenti scredi di non valere niente. E quindi c'era un po', passa anche da qua il lavoro dello psicologo per la società, nel senso che andando a lavorare sulle relazioni, andando a lavorare sulle persone, andando a soddisfare quelli che sono i bisogni delle persone, a questo punto la persona cessa di andare a cercare il bisogno ulteriore all'esterno e quindi cessa di andare a calpestare i diritti degli altri, cessa di andare a calpestare, a sfruttare le risorse degli altri quando non ne ha bisogno, cessa di prendersi più acqua di quella che ha bisogno, per esempio si parlava prima dell'acqua. Quindi il benessere della persona, una persona che è in una situazione di benessere psicologico, posso immaginare che abbia un comportamento nell'ambiente che sia in qualche modo equo-solidale, che vada almeno in questa direzione. Il lavoro dello psicologo si muove nel cercare di creare benessere alla persona e quindi può avere come conseguenza seconda, che non è il nostro obiettivo, ma una società più equa e solidale sotto questo punto di vista. Sulle definizioni di benessere posso andare anch'io ne ho viste diverse, tante, ci lavoro col benessere, io continuo ad andare a parlare di benessere nel lavoro, eccetera. In grandi aziende, piccole aziende, no, sul milanese e anche fuori, sul territorio nazionale. E alla fine benessere, dove lo posso andare un po' a riassumere? Poi ognuno di noi ha dei punti di vista differenti che però collimano tutti poi nello stesso concetto. Dal mio punto di vista è un equilibrio che si crea tra l'uomo e l'ambiente. Cioè quando c'è un equilibrio tra quello che io faccio e l'ambiente dove io vivo, allora posso dire che sono in una situazione di benessere. Infatti mi ritorna lo spunto che ha detto prima, parlava prima dell'Africa, dicendo è facile andare giù in Africa, è adattarsi, e poi quando si ritorna che ci vuole un po' più di tempo, è un po' più difficile riadattarsi alla nostra società. Allora questo mi fa riflettere, mi fa pensare a dire, ma allora vuol dire che forse là, con tutti i difetti che ci sono, però è un ambiente più umano, mentre quando torniamo di qua si crea uno squilibrio maggiore tra quello che siamo e quello che è l'ambiente che ci circonda. Forse il tentativo è anche su quello. Io vivo a Milano, è una grande città, eppure sento il bisogno incessante ogni fine settimana, come tutti i milanesi, che infatti ve li trovate dappertutto in vacanza, di scappare dalla città appena cessa l'orario lavorativo. Perché ci sono i milanesi dappertutto? Perché scappano da questa città? posso pensare perché la città, così come costruita, è un po' lontana da quello che è l'essere umano, così come l'autovettura è qualcosa di lontano dall'essere umano. E quindi nel momento in cui va bene per il lavoro, va bene per il business, va bene per il proprio sostentamento, ma nel momento in cui cessa questa necessità di sostentamento, di reddito, allora la città si svuota. No, dicevo anche la macchina, perché se ci pensate a chi fa un'ora e mezzo di pendolarismo al giorno, andare e tornare, stare chiuso dentro una scatola di ferro, che è quella che è la macchina, non è una situazione tanto umana, non è una situazione tanto vicina al nostro modo di essere. Non c'è il benessere nella macchina grande e confortevole, il benessere era nel camminare, nel riprendere a passeggiare nella natura. Cioè l'essere umano nasce come un animale che si deve rapportare a un ambiente che non è, però sembra che non sia l'ambiente che abbiamo costruito noi, ma è semplicemente l'ambiente, per esempio come questa collina, come un parco, è l'ambiente quello più naturale, quello più semplice, quello più spontaneo che si ritrova. Economia e benessere, un altro aspetto che ha già sollevato Luca, cioè sembra che questo benessere, quando parliamo di benessere, si parla sempre di benessere economico, del PIL, del più davanti a tutte le aziende. Io me lo chiedo da anni, nella mia ingenuità, non sono un economista, ma da anni mi chiedo, ma perché un'azienda, una società, deve sempre fare più qualcosa? Non può arrivare a un punto in cui dice, va bene così e cerchiamo di rimanere a zero? Cioè, nel senso, è più vicino una Onlus che una un'organizzazione profit, in questo senso. Posso fare più dal punto di vista economico, ma quel punto, però arrivo a un certo punto dove non è più possibile. Ma questo è logico, è banale, lo vediamo nella crisi che stiamo vivendo in questi ultimi anni. Il capitalismo va per crisi, ma per forza, perché se metti sempre un più davanti, a un certo punto se tu riempi un palloncino d'acqua, certo che poi prima o poi deve scoppiare per poi andare a riempire un altro, perché non ci può stare sempre di più. Ma poi questo più economico, parliamo di soldi, porta realmente benessere? Porta realmente lo stare bene all'essere umano? Le ricerche degli ultimi anni, degli ultimi 10 anni, ma anche 20 anni, se andiamo a guardare indietro, scopriamo che effettivamente ci dimostrano che sì, è importante un livello economico, il reddito, eccetera, ma non è solo quello. E diventa tanto meno importante tanto aumenta il reddito, cioè tanto più guadagno tanto meno importante per il mio benessere. Cioè una volta che ho il reddito per soddisfare quelli che sono i miei bisogni, a questo punto i miei bisogni si spostano da un'altra parte, non è più l'avere soldi, ma ho bisogno di altri elementi per concorrere al mio benessere. Eppure noi solitamente ci fermiamo lì, cioè come società ci fermiamo al benessere inteso come maggior reddito, maggior profitto, maggiore capitale. Eppure a un certo punto, quando sono ricco, come siamo noi nella nostra società, che siamo ricchi, che possiamo vestire, viaggiare, mangiare, avere un tetto, tutto quello che mancava, come diceva prima, a quel punto avere ancora di più, la casa più grande, la macchina più veloce, il cibo ancora più buono, non concorre più così in maniera così forte al nostro benessere. Bisogna aggiungere qualcos'altro. E questo qualcos'altro dove andiamo a trovarlo? Che cos'è questo qualcos'altro? E un altro aspetto è il benessere, cosa c'è dopo il benessere dal punto di vista psicologico? Vi rivolgo a voi come domanda: che cosa c'è dopo il benessere? Dal benessere psicologico, cosa c'è in più? Dove possiamo arrivare a puntare? Quello che possiamo, lo dico, vedo le facce con i punti interrogativi, quello che possiamo puntare dopo il benessere è la felicità. Raggiungere la felicità, questo è ideale naturalmente, è qualcosa, però ancora se dobbiamo porci un obiettivo, io andrei oltre il benessere, andrei verso la felicità, cioè creiamo società felici. Noi siamo, purtroppo, come abbiamo visto prima, in Africa siamo ancora al grado di creiamo delle società senza malattie, però arriviamo al nostro mondo occidentale e creiamolo felici. Per esempio, si parlava prima degli Stati Uniti, fondazioni. Gli Stati Uniti è un paese dove nella classifica delle felicità non eccellono assolutamente. Anzi, eppure sono il paese più sviluppato del mondo. E quindi, quali sono le determinanti della felicità nel farci felici? Io vi lascio un po', su questo vi lascio il dubbio, perché ci sono state ricerche che sono andate a valutare quali sono le determinanti della felicità e hanno trovato 14 punti, 14 specifici punti che rendono felici le persone. Non ve li dico, metteteli voi, oppure tranquillamente andate su internet e mettete classifica felicità 14 punti e vi vengono fuori questi 14 punti sulla felicità. Ultimo aspetto, poi, allora ritorno un po' a quello che è il mio lavoro, la mia professione, e quindi il benessere sul lavoro. Se prendiamo l'organizzazione lavorativa come un microcosmo, anche qua, e poi in parte rispondo anche a questa domanda sulla felicità, anche qua andiamo a osservare il lavoro stressante e invece il lavoro in benessere e il lavoro che rende felici. Su questo io faccio tanti studi e utilizzo spesso un modello è una semplificazione della realtà, e il modello che è risultato uno dei più validi, che viene più utilizzato ultimamente, si chiama, uso l'inglesismo, effort reward imbalance, che vuol dire sforzo, bilanciamento, score, sforzo, ricompensa. Deriva dal principio di equità, e torniamo al concetto di equità, però in questo caso un'equità tra me e l'ambiente, cioè tra i miei sforzi, quello che impiego io nel mio lavoro e quello che ricevo dal lavoro. Quando c'è, e deriva da una teoria sociale, è una teoria di Adams, una teoria sociale che diceva che la società è in pace, in tranquilla, in benessere quando il cittadino, l'individuo, il gruppo, quello che dà alla società, tanto dà alla società, tanto riceve. Un po' come pagare le tasse, quanto io pago le tasse, quanto ricevo i servizi, allora ho un principio di equità e quindi rimango tranquillo. Altrimenti, dice, si creano i movimenti, le sommosse, oppure la persona cerca di uscire da quel tipo di società. Io mi ponevo il dubbio, in Africa c'è questo principio di equità, c'è quello che dà il cittadino alla propria terra, alla propria comunità, riceve altrettanto? Su alcune cose sì, su altre no. Se parliamo di reddito, economia, soldi, questo sicuramente non credo. Se parliamo invece di relazione, interesse per il prossimo, questo probabilmente è già più equo, è già più presente. Quindi su un principio di equità, va bene, su tutti gli studi che ho fatto sulle varie organizzazioni lavorative, sullo sforzo e ricompensa, lo sforzo è quanto tempo dedico al lavoro, quanto impegno, quante interruzioni ho, il lavoro straordinario, eccetera. Ricompensa, cosa saranno mai queste ricompense? Provate a farmi un elenco delle ricompense sul lavoro. Lo stipendio. Ok, noi ci concentriamo anche a livello sindacale sempre sulla contrattazione, sullo stipendio, ma anche le persone dicono dovrei guadagnare di più, avrei bisogno di più soldi, eccetera. In realtà poi, quando io collego questi fattori con i fattori di salute, scopro che il modello prevede stipendio, avanzamento di carriera e stima che ricevo dai superiori e dai colleghi. Quando collego questi fattori con i fattori di salute, scopro che quello che pesa maggiormente è la stima che ricevo, stima inteso di gruppo, di affiatamento, di supporto, di possibilità di confronto, di partecipazione. È questo quello che incide attualmente nel nostro lavoro, nel lavoro del mondo occidentale. Non è lo stipendio, poi ci concentriamo su quello. Ma voi pensate, guadagnare il minimo indispensabile e lavorare in un bel gruppo di lavoro, stimolante, dove ci troviamo bene? Oppure pensate a guadagnare tanto e trovarvi in difficoltà tutti i giorni? Avviciniamoci adesso, va di moda, al mobbing. Essere in una situazione di mobbing, oppure non essere ascoltati, o essere trattati male, senza dignità sul proprio lavoro, però ricevere tanti soldi. Dov'è che vi ammalate prima? non dico dove preferireste stare voi, che poi diventa soggettivo. Ebbene, nel secondo caso ci si ammala prima, cioè quindi lo stipendio può essere alto quanto si vuole, ma in realtà il rischio cardiovascolare aumenta nettamente. Cioè è più facile di avere a Milano, diciamo, uno scioccone se sono in un pessimo gruppo di lavoro piuttosto che avere uno stipendio decente e un buon gruppo di lavoro. E quindi sono queste un po' le determinanti. Questo poi riporta un po' tutto a riflessione sulla effettivamente cos'è che ci fa star bene, cosa ci rende felici nella società. Ecco, io credo che l'ordine dei psicologi, sulla richiesta e sulla parte del gruppo degli psicologi che operano su Como, che ha chiesto di partecipare a questo tipo di fiera, credo che quello che sta avvenendo su questa collina, quello che abbiamo visto a Milano fa la cosa giusta, quello che facciamo noi credo quotidianamente dal punto di vista eco-solidale, ponendo attenzione a questi aspetti, sia la direzione ottimale per la maggior diffusione di benessere. Perché, e chiudo, l'altro canto è chiaro, parlava prima delle farmaceutiche, io ho lavorato per le farmaceutiche, ho visto il livello di benessere ma anche di retribuzioni all'interno delle aziende farmaceutiche. Io credo che se si vuole creare un equilibrio, un'equità a livello sicuramente di reddito ma anche di tutti gli altri diritti nel mondo, saremo noi costretti, il mondo occidentale, ad abbassare il nostro livello standard di vita. Non c'è altra soluzione, noi dobbiamo tornare indietro e accontentarci di avere un po' meno, di avere il palmare. Io adesso BlackBerry me l'ha dato mia sorella, l'ultima, il primo BlackBerry che è uscito, funziona lo stesso anche se non ho l'ultimo. Comunque l'idea è abbassare il nostro stile di vita, il nostro consumo di vita, e è l'unico modo per poter innalzare lo stile e il consumo di vita dall'altra parte, cioè quindi creare equità, altrimenti questo non sarà possibile. E quindi bisogna convincersi che il livello di benessere non è il livello economico, è importante il livello economico in cui siamo, però non è fondamentale, non è l'aspetto principale. Quindi basta confondere il benessere con il benessere economico, perché sono due cose secondo me molto differenti. Vi ringrazio. Vorrei fare un esperimento, provare a parlare senza microfono, perché usare il microfono fermo parlando del corpo e del benessere diventa un po' complicato, ma se non mi sentite lo prendo. Come va? Si sente? Benissimo. Allora, il mio intervento tocca il benessere e soprattutto ho ripensato un po', mi ero preparato una scaletta, ma poi in realtà ascoltando Italo e Luca mi sono annotata dei punti che mi hanno fatto molto riflettere. Una parte per me importante è la domanda di come non sia possibile in Occidente stare bene, nel senso, se pensiamo all'Africa e alla situazione che le persone si trovano a vivere, dove mancano tutto quello che viene considerato di base, mangiare, dormire, avere una salute, si apre la domanda di come non è possibile nella nostra società, dove comunque, nonostante la crisi, nonostante le perdite, nonostante il fatto che purtroppo si va continuamente nel decurtare il diritto, ma come non sia possibile poi poter garantire una sorta di benessere della persona. E per me questa è stata in realtà un po' una domanda imbarazzante, no? Nel senso che tantissime volte c'è un'abitudine, un'attitudine nel muoverci nella vita dove o ci lamentiamo o non stiamo bene o non ci prendiamo cura di noi, e tutto quello che viene considerato di base come mangiare, bere, dormire, che sono i bisogni essenziali, spesso noi stessi li trascuriamo, nel senso che delle volte abbiamo sete, non beviamo, abbiamo bisogno di dormire e non dormiamo, potremmo costruire delle relazioni sane con gli altri e magari anziché mettere la nostra attenzione perché queste relazioni sane si costruiscano, perdiamo continuamente questo tipo di attenzione. L'altro elemento per me importante è legato al concetto del benessere individuale, del benessere sociale. Se io sto bene con me, dove stare bene significa non solo avere una salute garantita, perché se pensiamo all'esempio dell'Olanda, hanno un diritto alla salute garantito, ma lo stesso le persone, il tasso di suicidio è altissimo, quindi non è sufficiente che un diritto venga garantito, ma anche il livello di attenzione, di responsabilità, di intensità nella nostra vita, di attenzione che abbiamo nella nostra vita, che può garantire benessere. Un benessere individuale va a incrementare il benessere sociale e il benessere sociale incrementa il benessere individuale, nel senso che spesso noi consideriamo il corpo, la persona e il benessere in generale come qualcosa di isolato e di singolo. In realtà tutti gli elementi collaborano fra di loro, scambiano informazioni e scambiano benessere e uno incrementa l'altro. Se pensiamo alla persona, non possiamo pensarla fatta di solo corpo, fatta di solo mente, fatta di solo emozioni. Ognuno di questi elementi si relaziona e si influenza vicendevolmente. Se abbiamo un corpo che sta bene, che è sano, più facilmente abbiamo dei pensieri positivi e più facilmente abbiamo delle emozioni positive. Se io invece vivo una situazione di stress, di fatica a livello emotivo, più facilmente sono soggetto a delle malattie. Oppure se ho delle relazioni non sane intorno a me, facilmente questo va a incidere sul mio corpo e sulla mia salute e a catena va a influenzare la società. Quindi io vorrei che veramente tutti questi elementi, corpo, persona, mente, benessere individuale, benessere sociale, stare bene, siano degli elementi che comunicano veramente fra di loro. E nel mio lavoro con il metodo Greenberg, gran parte di quello che viene proposto vuole portare la persona a creare attenzione, nel senso che spesso, così come non abbiamo attenzione a noi, al nostro corpo, ai nostri bisogni, non abbiamo attenzione ai bisogni e alle relazioni e a tutto quello che ci sta intorno. Quindi delle volte l'egoismo, che viene definito sano, può creare una società sana, mentre una società malata crea un egoismo malato e un egoismo malato crea una società malata, dove la persona mette continuamente l'attenzione solo su di sé e non è in grado di mettere l'attenzione sull'altro. Cioè, tanto più noi stiamo bene con noi stessi, tanto più possiamo stare bene con quello che ci sta intorno e anche un'attenzione che possa portare veramente a prendersi cura. Il concetto di prendere cura va a sviluppare un prendersi cura di sé ancora una volta e un prendersi cura dell'altro, dove io e l'altro scambia e incrementa forza, energia e potere. Potere non inteso come dominio, potere inteso proprio come energia e come forza della persona, della società, dove si possa spostare l'attenzione dal sé a qualcosa di più generale. Spessissimo le persone invece nella nostra società scelgono quello che io posso andare a definire un malessere, per cui per esempio non prendersi cura di dormire bene, non prendersi cura di nutrirsi bene, non prendersi cura di delle relazioni che instaurano insieme alle persone che hanno intorno a loro, per cui magari nella relazione con il marito essere duri o lamentosi o criticare costantemente i colleghi di lavoro. Cioè, quello che vorrei dire è che spesso, se non c'è una responsabilità nella vita di tutti i giorni, nelle relazioni, è difficile poi che qualcosa all'esterno possa cambiare. Faccio degli esempi semplici a partire dal corpo. Cioè, se io mi accorgo che in una situazione davanti al pubblico sono in stress perché devo parlare, mi devo esprimere e quindi contraggo le spalle, chiudo il petto e non respiro, quello che io intendo come attenzione a sé è la possibilità di poter respirare, poter rilassare i muscoli, poter rilassare il corpo. Quindi, attraverso la consapevolezza e l'attenzione, riportare l'attenzione al mio corpo. E sono dei piccoli elementi che ci permettono di avere una visione più grande dell'insieme. Se pensiamo alla salute, partiamo dalle cose di base, cioè dal corpo che sta bene, che è sano, e che cosa significa, no? mi riflettevo anche su questa cosa, magari mi interessava Italo, poi se tu potevi dire qualcosa dopo legato al tema dei farmaci e dei medici e della medicina, perché è un punto che mi fa sempre molto riflettere di come facilmente invece si cerca di sostituire l'attenzione con un farmaco, per cui sei teso, sei stressato, tac, ti do questo, e poi l'industria farmaceutica decide di investire in alcune medicine piuttosto che altre, creando un business. Allora, secondo me, anche in questo senso dovrebbe cambiare l'approccio, cioè la persona potrebbe iniziare a mettere l'attenzione a sé, ok, sono stressato, vivo una situazione di stress, la mia pressione inizia a salire, dove vado a inserire benessere? Prendendo direttamente il farmaco o anche prendendo attenzione a me, vedendo come io mi relaziono con la situazione di stress e imparando a relazionarmi con l'esterno in modo diverso? Cioè, per me il benessere rientra un po' in questo ampio settore, dove sposto l'attenzione anche su quello che io faccio, non solo quello che arriva dall'esterno. E per me questo è davvero un punto importante, perché cambia completamente la prospettiva che ci può essere nella nostra qualità di vita, nel senso che spessissimo siamo così incastrati nella cultura, nella società, nelle relazioni familiari, nei ruoli, nell'abitudine che abbiamo nella vita, e ci dimentichiamo che invece tutta questa cosa che ci inscatola e che ci ingabbia non è sempre così rigida, e che delle volte un po' questa gabbia esterna si può rompere. Allora posso pensare che una persona dall'Italia va in Africa pur vedendo delle cose terribili, per cui morte, malessere, disagio, sentire uno spazio di apertura, cioè sentirsi, ah, ma la vita è questa cosa qua, dove si batte fra la vita e la morte, ma la vita è qualcosa, come dire, di vivo davvero. Tante volte invece nella nostra società ci muoviamo un po' come degli zombie, dove restiamo all'interno di ruoli, restiamo all'interno delle abitudini, dimenticandoci che abbiamo tantissima libertà invece di poter fare delle scelte, di poter fare dei cambiamenti, di poter decidere di instaurare delle relazioni diverse, di poter decidere di avere una collaborazione anziché di non averla, di mettere attenzione alle persone che ci sono vicino, come il marito, la moglie, il fratello, la sorella, perché a partire proprio dal singolo alla famiglia, ad allargandosi alla società, come sasso che lanciamo nell'acqua che crea degli anelli concentrici che comunicano. Invece siamo sempre abituati a considerarsi a pezzetti, come consideriamo anche il corpo a pezzi. Spesso pensiamo una spalla come una spalla che mi fa male, ma non metto insieme la spalla magari con il polso. Oppure che se ho un dolore alla schiena e poi sento male alla pancia, magari le due zone sono collegate. Che se prendo un colpo alla caviglia e inizio a zoppicare, dopo un anno, dopo sei mesi mi fa male l'anca sinistra. E per me questo parallelo fra il corpo che comunica, il davanti col dietro, l'interno con l'esterno, l'alto col basso, e le relazioni con gli altri, la società e il mondo che sta prendendo, come dire, una linea un po' in decadenza, in realtà non lo stesso tipo di lettura, cioè che il tutto comunica con il tutto, e che se questi elementi si sostengono reciprocamente si può creare un miglioramento generale e non un decadimento generale, un abbruttimento, no? Delle persone. Pensavo anche a delle cose semplici che sono state citate prima, come il tabacco, l'alcol, l'acqua che viene bevuta o non bevuta, cioè tante piccole scelte del quotidiano che possono incrementare il nostro stare bene. Nel mio approccio, nell'approccio con il metodo Greenberg, tanto è riportato al corpo, corpo inteso come persona, non corpo inteso solo come fisico, persona fatta di pensieri, di emozioni, di sensazioni fisiche, di qualcosa che comunica continuamente, e di come questo essere complesso comunica con l'esterno, e quindi come spesso noi reagiamo a quello che arriva dall'esterno. In uno dei punti introduttivi ho segnato imparare a trasformare il dolore per recuperare benessere, cioè grazie all'attenzione e all'ascolto del corpo. Penso che sapete tutti che il dolore è una costante della nostra vita. Nasciamo e iniziamo ad avere dei piccoli dolori fisici, i primi denti che crescono creano dolore e il dolore, pur non piacendoci, ci accompagna continuamente. Spesso quello che facciamo con il nostro corpo è cercare di respingere questo dolore, creando delle tensioni, creando delle rigidità, creando uno scollegamento dal corpo. C'è chi risponde a questo parlandone, c'è chi lo drammatizza, c'è chi lo ignora, ma molto poco siamo in grado invece di utilizzare qualcosa che è anche parte della vita per recuperare forze, per recuperare energia. Cosa vuol dire? Che se io ho un dolore alla spalla, anziché contrarre continuamente la mia spalla e creare malessere nella zona, andando a trasformare un dolore in un sintomo cronico, poi in una serie di elementi che danneggiano il mio stare bene, posso imparare ad ascoltare questo messaggio del dolore, che è un allarme per il nostro corpo, che ci dice forse devi prestare attenzione, forse stai facendo uno sforzo, forse c'è qualcosa nella tua spalla che ha bisogno di cura. E per me questa è la lettura che andrebbe messa un po' in generale, di utilizzare quello che arriva nell'esperienza personale e sociale per imparare ad avere attenzione e consapevolezza. Non so quanto ho parlato, cosa, perché quanto sono andata vuoi. Davvero, avevo messo una scaletta completamente diversa, poi ho cercato di, invece di fare, di usare un po' le riflessioni che mi sono nate con gli interventi di Italo e Luca. Faccio la prima domanda a Italo, legato a questo tema dei farmaci, dell'industria farmaceutica. Se forse se tu come medico puoi dire qualcosa, cosa pensi? Così. Sì. Oh, scusate, ho chiesto, va bene, la domanda la faccio col microfono. Ho chiesto a Italo se per gentilezza mi può dire cosa pensa rispetto all'industria farmaceutica, farmaci, all'approccio alla salute che c'è anche nella società occidentale come medico e quindi come sì, voce esperta. Io dico solo questo, che è vero che la visione medica è farmacocentrica. Faccio due esempi semplici, uno dell'altro ieri. È venuta una signora in pronto soccorso depressa, decisamente depressa, ha vista, l'ho fatta vedere allo specialista perché volevo darle un aggancio, gli ha dato la terapia e ha detto alla signora venga in ambulatorio fra 2 mesi perché prima non vediamo l'effetto del farmaco. Io ho scritto sotto e ho detto alla signora si faccia dare un appuntamento almeno fra 3 settimane perché non è sufficiente vedere l'effetto del farmaco, no, ci vuole un minimo di accudimento in più della persona per un problema così. L'altro esempio invece è rivolto al paziente, parliamo di un problema osteomuscolare per fare un esempio, tu dici al paziente riposo e ti dicono devo lavorare, faccia fisioterapia, vada dal fisiatra, si faccia prescrivere un ciclo di fisioterapia come lo specialista ritiene, che vuol dire prendersi la briga di andare un paio di volte alla settimana per tot periodo e non c'ho tempo di farlo, metta il ghiaccio 3 volte al giorno, è una menata, gli dici prendere l'antinfiammatorio che ti passa il dolore, pronti via, succede così, no? Nell'esperienza quotidiana, per cui la visione è farmacocentrica sicuramente, che è una visione assolutamente parziale. Può essere farmacocentrica per alcuni problemi d'urgenza che sono quelli che gestisce il sottoscritto, però ovviamente non per dei problemi di medio e lungo periodo, no? Posso aggiungere una cosa? Quello che dice Italo mi fa venire in mente che nella nostra società non c'è un tempo per la cura, no? Nel senso che è come se la cura va di pari passo al ritmo che è quello della società, che è un ritmo naturalmente super accelerato, stressante, consumistico e così via, mentre in altre culture, malgrado non hanno i farmaci necessari per curare le cose di base, c'è un ritmo assolutamente, come dire, lo definirei più umano per alcuni aspetti. E la cosa che io ho sentito che accomuna i vari pensieri sono proprio la questione delle relazioni umane o la relazione con l'ambiente dell'uomo in fondo, no? E mi sembrava utile dopo tutta questa spattafiata, in effetti più di parole nostre, più visto che l'idea è quella del dibattito più che del convegno teorico dove ci sono gli esperti, ma vedere un po' che cosa possiamo imparare anche noi da voi, e quindi vedere se ci sono degli stimoli, delle domande o delle riflessioni anche, insomma, da parte vostra dopo tutta questa sbrodolata, ecco. Dovete parlare, altrimenti tutto questo discorso dell'attenzione a sé, intanto che qualcuno parla, scusa. Silvia, volevo dire questo: noi come Medici con l'Africa, come associazione, siamo consapevoli che ogni volta che parliamo di queste tematiche qui parliamo di argomenti tristissimi, no? Anche i sistemi sanitari sovranazionali, che apparentemente sembrano non avere una ricaduta sul nostro vissuto, invece ce l'hanno, noi non ce ne accorgiamo, ma ce l'hanno, però sembra una cosa che è là. Nello stesso tempo tutto questo bagaglio di morti, malattie, eccetera, eccetera, che sembra che non ci interessino, io dico che invece è la situazione normale della umanità, perché siamo noi che siamo diversi, invece è come essere in un castello e fuori c'è tutto il resto, noi siamo nel castello con i problemi del castello, ma la vita reale, il mondo vero è quello che è fuori. Perché la gran parte dell'umanità sperimenta quelle situazioni lì, chi più, chi meno, non sperimenta il nostro modo di vivere con i nostri problemi del nostro castello. Poi è ovvio, l'ho detto prima, che anche qui ci sono altri colleghi che sono stati in Africa, non ce n'è uno che non partirebbe per l'Africa domani, non ce n'è uno. Per cui, nonostante tutto, come diceva il Paolo prima, probabilmente c'è qualcosa qui, in questa società qui e in questo mondo qui, che ha preso una linea distorta e che dobbiamo cercare invece di recuperare. Questa cosa qui è fondamentale, cioè, perché alla fine ascoltate gente che vi parla di mortalità infantile, di mortalità materna, di esperienze drammatiche, oltre il drammatico alcune, di problemi enormi, e poi vi dicono: signori, domani andiamo in Uganda, ciao. È l'Uganda che è venuta da me, giusta, al momento giusto. Così si capisce che possiamo, che è più un cerchio che non un tavolo degli esperti. Posso intervenire? Prego, sì, come? Ottimo. Vuoi il microfono? Sì, penso. No, ma non so se mi sento. Sono molto tentato, no? Fra il fare un discorso di tipo costruttivo, minimamente costruttivo, o provocatorio, di rottura, perché alcuni di voi, mi dispiace dire queste cose perché io è come se sputassi nel piatto nel quale ho mangiato per 40 anni, no? E le cose che ho sentito dai colleghi psicologi, anche dalla signora, mi sembrano che siano riconducibili a problemi che si vivono all'interno del castello, per usare questa metafora, questa simbologia sua. Qui alcune cose le condivido, avete detto delle cose, ma poi quando sento alcune cose mi viene voglia di dire: in Olanda, in Danimarca, in Svezia, no? Si vive meglio dal punto di vista economico, hanno più, cioè, però ci sono molti più suicidi. Allora vuol dire che non sono i soldi che contano, no? Sono altre cose. E questa è una balla enorme, no? Perché primo non considera una serie di cause che determinano anche il suicidio. Alcune sono legate ai problemi che lei accennava, al problema relazionale a Rogers, eccetera, ma altri sono legati ad altri fattori, per esempio a fattori di tipo ambientale. Colleghi danesi olandesi mi dicevano, no? Ma anche italiani che sono andati a lavorare, no? A fare ricerca, che alle 4 del pomeriggio c'è buio in questi paesi, in queste città, ed erano costretti ad andare, no? Per forza a fare ginnastica nelle palestre per evitare di cadere in depressione, no? Per citare un fatto che può essere alla base, no, di questo tipo, no, di comportamento suicidario. Poi ci sono anche problemi relazionali, eccetera, no? Cioè, mi veniva la voglia di dire, no? Stiamo qui a esaltare la via psicologica al socialismo, no? È un problema solo di rapporti umani, eccetera, di attenzione al corpo. No? Dobbiamo avere il coraggio di dire che alla base, no, ecco, di questi problemi di cui noi stiamo parlando c'è l'egoismo sistematizzato a livello globale, che è rappresentato dal sistema capitalistico dal punto di vista economico. Bisogna avere il coraggio di dire questo, no? Questi sono problemi che si vivono appunto a partire da questo tipo di opzione che è stata fatta, che ci è stata imposta dal punto di vista dell'organizzazione della vita economica. Dico, non lo so, voi pensate che, ma veramente, no, viva più stress Marchionne o gli operai, no, che hanno sono stati costretti a fare l'opzione, no, che hanno dovuto fare come una forma di ricatto? È vero che i soldi non danno la felicità, su via, ma perché i ricchi non rinunciano mai ai soldi tanti che hanno? Anzi, io sono del parere che può avere i soldi, alcuni problemi, fonti di distress, li puoi anche affrontare, no? Puoi viaggiare, hai più tempo, perché poi se si va a vedere, collega, o anche quello che lei ha detto, molte persone sono costrette a ricorrere al farmaco perché effettivamente non hanno tempo per dedicarsi a tutte queste forme, no, di cure alternative, no? Cioè, solo Berlusconi ha tempo per fare tutta una serie di altre, ed è un modo anche quello per superare il distress, no? Una forma di eustress, no? Come lo chiamano, lo chiamiamo noi psicologi, no? Capite? Il problema è questo. Anche il Papa recentemente, sembrerà strano, ma io ho espresso, Massimo lo sa, no? Un'opzione di tipo religioso, anche se dico alcune cose, anche il Papa recentemente ha detto, no, che la precarietà con tutti i problemi, no, che comporta, i problemi economici, la crisi, no, è dovuta al tipo di organizzazione socio-produttiva, no? Al modello economico. Lui però si ferma qui, non ha il coraggio di dire qual è il modello alternativo, no, da proporre perché questi problemi vengano risolti e affrontati, no? Capite? Allora dobbiamo partire, i vostri discorsi mi vanno bene, però mancano di un aggancio che li tenga su, che è la denuncia del tipo di società che il capitalismo, basato essenzialmente sul mercato, sulla concorrenza, la competizione, la lotta fra le persone, eccetera, no, ci ha creato intorno. Chiedo scusa. Io dico una cosa semplice, che penso che fosse premessa di base, o almeno per me lo era, mi sembra anche per i colleghi, che la società è gestita dal mondo economico. Ed è vero, io sono pienamente d'accordo che l'economia gestisce gli equilibri, e tanto più qualcuno è ricco, più facilmente qualcuno è povero, perché altrimenti si crea questo equilibrio del ricco e del povero, altrimenti non ci sarebbe mai qualcuno che sta sulla punta della piramide e così tanti che stanno alla base. Diverso però è spostare anche l'attenzione alla responsabilità personale come attenzione nella vita. E io penso che a questo punto abbia bisogno invece di una grossa riflessione, perché altrimenti il rischio è di tante volte anche di lamentarsi senza riflettere. Non parlo del Signore ovviamente, però spesso gli individui hanno, dal mio punto di vista, un approccio alla vita spesso non critico ma di lamento, e io credo che invece il passaggio individuale e sociale dovrebbe essere più in un ordine di costruzione. Posso aggiungere? È facilitato dal livello culturale. Sì, ma sono pienamente d'accordo che la cultura influenza, che è legato ancora ai soldi. Sono d'accordo, ma non soltanto, però, perché anche l'individuo, non solo, anche l'individuo fa cultura. La cultura è legata ai soldi. In parte legata ai soldi, ma in parte legata anche, secondo me, dalla scelta personale, dalla responsabilità personale, perché delle volte ci sono persone che vivono in condizioni agiate e non hanno comunque una cultura sociale, per cui la scelta anche dell'esterno viene data dall'individuo. Non è solo, non è che sono in totale disaccordo con lei, cioè onestamente io non sono una psicologa, sono un'operatrice del metodo Greenberg, ho lavorato in passato in ambito educativo non legato al corpo ma legato al sociale, per cui le cose che la fanno tanto addolorare le condivido e le capisco pienamente, ma penso che davvero delle volte debba essere fatto questo passaggio di responsabilità personale, non solo dell'esterno, altrimenti lo considero un grosso limite all'essere umano. E invece credo, soprattutto in Occidente, dove c'è una cultura di base, se lei mi parla dell'Africa dove non studiano, non hanno da mangiare e muoiono, il discorso è un pochino diverso, ma che ci debba essere davvero anche il desiderio e la responsabilità dell'attenzione, non solo attribuire qualcosa fuori, perché se io attribuisco qualcosa fuori non è mai mio compito, è sempre quello di qualcun altro, e credo che questo sia un po' il limite. Ma no, io sono molto contento che il dibattito abbia avuto inizio, grazie al collega, nel senso che, poi non voglio dire altro, però mi sembra un luogo dove è possibile esprimere un disaccordo, diciamo. Abbiamo una difficoltà in genere a dire una cosa differente, non è che dobbiamo tutti essere, volemos bene, amici, e essere d'accordo su tutto, no? E a me la cosa che ha fatto venire in mente la prima è stato un libro che ho letto e riletto tante volte, che il collega, che è Avere o Essere, di Eric Fromm, dove si parla molto di questo aspetto, di questa riflessione. Io sono d'accordo con quello che dice Fromm, cioè che è vero che lui l'ha scritto tanti anni fa questo libro, ma credo che sia molto attuale questo testo, cioè che più si ha e meno si è. Il benessere è legato all'essere, quindi che tutto questo non faciliti poi, non permetta in realtà facilitare le relazioni umane, diciamo, quindi un clima positivo. Tant'è vero che penso ancora alle mie esperienze nei paesi poveri, dove ho visto molte più persone felici di quando sono stato nei paesi tra virgolette ricchi. Questa è la mia esperienza diretta, diciamo, no? Questo è quello che mi è capitato, e quindi credo che effettivamente, peraltro, mi capita anche nel mio studio di fare consulenze, per esempio, dei grandi manager, dai sindaci, per esempio, no? Allora, e stavo pensando prima a quanto può essere felice, visto che il collega Paolo Campanini parlava della felicità, quanto può essere felice un uomo politico come Berlusconi, per esempio, no? Non voglio entrare in un discorso politico, ma è una domanda che mi faccio, no? E quindi è che tante volte c'è un aspetto esterno di immagine che cela, che nasconde in realtà degli stati, perché comunque se sei in una posizione devi apparire in un certo modo, ti devi vestire in un certo modo e così via, ma questo non corrisponde a come tu stai dentro. E tante volte succedono anche che persone di grandi responsabilità si fanno del male o fanno del male. E non è facile gestire in questo senso la responsabilità anche nei luoghi di lavoro, direi, no? Non è un compito semplice. Da parte sua poi è difficilissimo gestire la responsabilità da parte di Berlusconi, come si sta vedendo. Certo. magari con qualche disaccordo. No, allora, vediamo, mi metto qua così. Allora, chiedo a Silvia Dragoni di controllare la postura. È imbarazzante adesso parlare perché sarà c'è un medico, uno psicologo, esatto. Un esperto del corpo. Allora, proviamo. Ho chiesto a mio papà se sarei stata in grado di parlare, mi ha detto un pagotto antidane per far studiare di un quel corso. Allora, come suggeriva Luca Mingarelli, sì. Provo a condividere così delle domande, delle suggestioni che mi sono venute ascoltandovi. La prima è questa. L'OMS, diceva Italo Nessi prima, avrà bisogno sempre di più dei soldi delle fondazioni, se ho capito. E parlava delle aspettative di ordine commerciale, no? Che le fondazioni avranno rispetto all'OMS. Mi veniva un po' in mente che sarà come se qualcuno dall'esterno dirà che cosa si deve fare, no? Dirà cosa deve essere salute. E allora in questa domanda che circola qua oggi, cos'è salute, cos'è benessere, questa, come dire, prossimo futuro che probabilmente è già presente delle fondazioni che finanzieranno questa grande organizzazione mondiale, è un po' come se qualcun altro dirà che cos'è la salute, qualcun altro dirà che cosa si deve fare, qualcun altro dirà quali saranno i bisogni e quali saranno le risposte a questi bisogni. In questo pensiero mi faceva sorridere, no? Come al tavolo del grido della salute, ma come diceva qualcuno prima, poi non voglio sputare nel piatto in cui si mangia, però ci sono degli esperti della salute e in tutte le società, tante volte in questa tavola rotonda, dibattito, conferenza, chiamiamola come vogliamo, si sono, a mio avviso, anche un po' edulcorate, no? Altre società, no? Là è tutto bello qua, mamma, no? E, ecco, in ogni società ci sono degli esperti della salute, quindi abbiamo tre ruoli che sicuramente per il nostro mondo sono ruoli di expertise, no? Gli esperti della salute. E allora mi chiedevo, ma chi è l'esperto della salute? È possibile recuperare il proprio essere esperti della propria salute? Detto che non abbiamo ancora detto che cos'è, eppure ne stiamo parlando da 3 ore. E allora mi chiedo se quello che è davvero importante è quello che ci diciamo quotidianamente, costantemente tutti su che cos'è salute, qui, altrove, ecco, da ogni parte. Quindi la domanda è chi è l'esperto della salute? E anche così, accogliendo la provocazione di prima, mi chiedevo se gli esperti della salute, che siamo anche noi, mi metto dentro, sono operatori che lavorano per mantenere lo status quo o operatori del cambiamento. E allora mi chiedo se a questo punto, più che tutelare la salute, essere esperti di salute, la nuova figura che è un po' trasversale, no? Ai ruoli qui presenti, sia quella appunto dell'operatore di cambiamento. Concludo perché ho parlato tanto, poi dopo mio papà mi sgrida che è troppo lungo l'intervento. I determinanti della salute, i determinanti della felicità. Riusciremo mai a pensare che non siamo vittime sempre di qualche causa che genera l'effetto salute? La salute è stata spesso citata come condizione, come stato. C'è uno stato di salute in opposizione a uno stato di non salute, anche qua il pensiero cartesiano, no? C'è la salute e la non salute e c'è qualcosa che la determina. Allora mi chiedo se sia possibile passare da una visione della salute come stato a una visione della salute come processo, in cui ci può stare anche il dolore, ci possono stare tante cose e magari non è tanto importante il perché, il determinante, ma il come facciamo anche insieme a generare la salute o a contrastarla. Noi per primi, psicologi che mettono sui timbri alle persone e dicono questo è così, quell'altro è cos'ha e mantengono lo stato di non salute più che generare cambiamento, ma è una provocazione e quindi fine a se stessa e quindi ritorno la parola agli esperti che proprio come succede nella nostra società risponderanno perché dovranno appunto dire qual è la verità sulla salute. Prego, a voi la parola. Allora, attenzione, noi non diciamo che là è bello, che qui è brutto, ma poniamo delle domande dicendo perché della gente che ha vissuto delle realtà drammatiche, se gli chiedi vai in Uganda domani, ti dicono di sì. E ci poniamo delle domande sul fatto di dire ogni volta che si torna è più difficile reinserirsi qui che reinserirsi laggiù. Ci saranno dei perché. Questo va probabilmente compreso e studiato. Gli esperti della salute in Uganda, ma anche nei vari altri paesi africani, ce li hanno già. Però andiamo noi. Ce li hanno già, sicuramente ce li hanno già. E io dicevo sempre a quelli che venivano dopo di noi che l'Uganda esisteva prima di noi, gli ugandesi prima di noi, e noi siamo solo degli estranei che ci siamo inseriti dentro lì con le nostre quattro idee nella testa, che sono idee di società, di mondo, di salute e di malattia, di fatto. Per cui bisogna starci attenti a come ci si muove e a quello che si fa. Gli esperti della salute, mi sembra che nella nostra esperienza abbiamo fatto almeno una cosa positiva, che quando siamo arrivati nell'ospedale ultimo dove siamo arrivati abbiamo chiesto se c'erano, e sapevamo già che c'erano, dei guaritori locali, e abbiamo fatto un incontro ufficiale con tutti i guaritori locali della zona, che vuol dire un raggio di 50 km dall'ospedale, per dire che c'eravamo, che sapevamo che loro facevano parte di quella società e facevano parte del problema salute e malattia, e semplicemente ci mettevamo a disposizione laddove loro ritenessero che le persone che vedevano avevano bisogno di noi. Tutto qua. Abbiamo fatto un programma interessante dove praticamente finiva che loro inviavano le persone in ospedale quando capivano che non riuscivano a fare più nulla, e che noi dall'ospedale facevamo la doppia terapia, chiamiamola così, la terapia tradizionale e la terapia non tradizionale, e nello stesso tempo per alcune patologie, perché per altre non si può, rimandavamo le persone dal loro guaritore locale. Quel programmino lì che avevamo messo insieme ci era sembrato una cosa interessante. Ovviamente è ripetibile in alcuni contesti, ci vuole chi ci mette la testa anche su queste cose qua. Questo per dire due cose sugli esperti di salute. Il metodo Greenberg è un metodo di educazione, di attenzione, per cui quello che vuole portare alla persona è di imparare a sentire che cosa fa o che cosa non permette il benessere, per cui assolutamente attraverso un percorso di attenzione, di consapevolezza, e non un dire all'altro cosa deve fare per stare bene, per cui assolutamente in questa direzione. Mi piacerebbe così ipotizzare per il futuro questa collaborazione di cui parlava Italo con i guaritori locali, lo stesso tipo di collaborazione fra la medicina e anche delle metodologie diverse che facilitino la guarigione. Cioè pensare che magari delle volte il farmaco è assolutamente necessario e delle volte invece l'attitudine che deve cambiare che è assolutamente necessaria. No, lascerei la parola a qualcun altro. No, volevo solo aggiungere che l'esperto in realtà, mentre nelle tradizioni si poteva dire antiche, esiste l'esperto alla salute, nelle nostre è andato perso. Quindi è tutta una questione molto interessante la domanda e la riflessione fatta dall'ultima riflessione fatta dalla signora, che secondo me è una domanda da aprire, più che da chiudere, cioè come facciamo noi a domandarci, che non è una priorità l'esperto, non è che è dello psicologo, è del medico, io credo questo, no? Che bisogna cercare in realtà di pensare che nella società odierna, per stare dietro al cambiamento attuale, che abbiamo visto che va un po' in giù, sia necessario inventarsi nuovi mestieri, come diceva Alexander Langer anche. Lui definiva i saltatori di muri, ecco. Poi se qualcuno vuole aggiungere. Invito anche, ci sono dei laboratori per stare nella pratica più che nella teoria, che abbiamo organizzato come ordine, che parlano proprio di benessere. In realtà uno è legato alla fotografia, per dirvi, l'altro è legato al corpo e l'altro è legato alla spiritualità, che saranno da oggi in poi, nel pomeriggio e domani, per dirvi che ci sono delle possibilità di esplorare, noi siamo degli esploratori in realtà di questa ricerca di mestiere. Lascio la parola a Italo. Lascio la parola alla Silvia, anche perché dobbiamo chiudere, perché ci sarà il prossimo dibattito conferenza. Ecco, una piccola cosa agganciandomi a Paolo, che nell'area benessere c'è uno stand con il metodo Greenberg e gli operatori danno degli assaggi di seduta di che cosa significa mettere attenzione al corpo, e domani mattina ci sarà un breve laboratorio per un po', tempo permettendo, visto che le previsioni sembrano avverarsi pian piano. Io vi ringrazio perché diversi anni che partecipo alla fiera e ogni volta è veramente con enorme piacere condividere questo ambiente di attenzione, di crescita, e ringrazio i partecipanti e le persone con le quali ho diviso questo dibattito. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.